Con chi parlo? Ciao, sono Andrea. Ciao Andrea, Natalino Alfa 1 da questa parte. Ciao Natalino, ben trovato. Ecco, stavo provando a vedere qua, perché c'ho l'antenna che è messa male, capito? E bisogna controllare le stazionarie prima. Cappa, e anch'io ieri ho avuto problemi stazionari, oggi non le ho ancora controllate. Infatti mi sembra che la voce sia più bassa. Eh sì, è possibile, infatti adesso dovrò riaccordare. Cappa. Mi arrivi benissimo comunque, Natali. Ehi, vabbè, siamo vicini, si può dire, là. Cappa, è vero. Sono zona Mercato Civico io, là, quella zona lì sono. Io ho due di stazionaria. E accordatore ne hai? No, capa, c'ho il rosmetro, ma ieri ho piazzato una mini boomerang e secondo me è peggio dell'altra. Con l'altra arrivavi bene. Evidentemente non è accordata quella. Ho provato ad accordarla ieri, ma ho un problema anche di cavo, perché c'ho un cavo da 75 ohm e non da 50 ohm. Insomma, devo fare un po' di modifiche. Ho capito, non ti conveniva lasciare l'altra. Io adesso la ripiazzo, appunto ce ne ho tutte e due. Ma per avere qualcosa di più stabile, no? Vabbè. Dovrebbe chiedersi prima. Quando la metti a posto usi questa. Per il momento usa l'altra, no? Che ci meglio. Cappa, farò così. Almeno non bruci l'apparato, capito? Perché puoi rischiare di bruciare l'apparato con due di stazionari. Sì, è così, infatti sto facendo passaggi corti. Cappa. Vabbè, adesso mi sistemo la vecchia. Aspetta un attimo che spengo il televisore, che sennò magari si sente lui più di me. Ok, va meglio così? Sì, va meglio così, sei più forte e anche più chiaro di radio. Vabbè, perché praticamente ho spento il televisore, non si sentono rumori di sottofondo. Buongiorno a tutti. Ciao Gianfra, buongiorno, buona domenica. Buongiorno Gianfranco. Anche a te, anche a voi. Buona domenica, pace, bene a tutti. Anche se la pace è un po' difficile di questi tempi. Natalia, ogni tanto ti mandiamo i saluti comunque, non so se hai sentito. Già ho sentito Gianfra. Solo perché siamo là non è detto che non ci ricordiamo, invece anche questa. Infatti sto aspettando la telefonata di quella persona, così ci mettiamo d'accordo e gli porto quello che gli devo portare. Ok, per l'altro sto bene, sì. Hai finito di fare visite e visitina? Sì, ancora no. C'è da controllare la pressione, ma già sta abbassando. Mi ha cambiato la cura la dottoressa, capito? C'avevo la pressione alta, sia la minima che la massima. La minima è già abbassata. Adesso vediamo da lunedì. Devo misurarmela e portargli lunedì prossimo i risultati. Guarda, se non vuoi prendere medicine fai come faccio io, quando praticamente c'è la pressione alta, tolgo il tappino che c'è lì nell'ombelico, premo il pulsantino e senti e quindi la diminuisci, non troppo però, attenzione. Chi è con te? È un nuovo entrato, nuovo per modo di dire, che entrava parecchi anni fa. Andrea da zona via Mendola, Avanti Andrea, ben ascoltato. Ciao Gianfranco, ben ascoltato anche da parte mia. No, interessante questa cura per la pressione alta. Sì, scusa Andrea che mi hanno chiamato, riprendi Natali. Capa, riprendi riprendi Andrea, anche io vorrei averlo quel tappino che ha Gianfranco. Cavolo, se studiavo Gianfranco tra un po' medicina ce ne saranno più in giro. Infatti, avendo quel tappino si rinuncia ai farmaci, diciamo così. Magari fosse possibile. Cappa. Ma come ce l'hai adesso? Da lunedì devo cominciare a misurarla, comunque la minima è 80, va bene, perché me l'ha misurata la dottoressa, è la massima che avevo alta, prima le avevo tutte e due alte, perché non stavo prendendo un farmaco, capito? Che me l'avevano tolto, e però la pressione rimaneva alta. Cappa, ascolta, ma le caviglie gonfie c'hai? No, negativo. Ok, cappa, e la dieta, sale, l'hai già tolto, l'hai ridotto, tutte queste cose a posto? Sono diabetico, più dieta di quella. Vabbè, ma già si sistema quello lì. Quante medicine prendi al giorno? Quante pastiglie? Allora, 6 pastiglie al giorno, perché ne prendo una per il diabete, mi ha tolto l'insulina, dice che non ne ho bisogno di insulina, e praticamente una pastiglia mi fa tutto il giorno, faccio solo l'insulina, quella lenta per la notte, capito? La R, sì, ho capito. E vabbè, si sistema anche la pressione. Lunedì comincio a misurare, l'altro lunedì gli devo portare i risultati per vedere se è abbassato, capito? Ecco, misuratela sempre disteso, sempre lo stesso braccio, 2 o 3 volte prima di segnare il valore. Già le so quelle cose. Ho fatto 30 anni di volontariato, quindi già le so, non c'è problema. Cappa, che non si sa mai. Va bene, dai, quella lì già si sistema. Infatti. Sai che ieri sera con Sguccio siamo usciti e siamo la squadra che ha ritrovato Gaviruccio Cano. Come, Andrè? Ti ascolto un po' basso di radio. Ripeti quello che hai detto, che siete usciti con Giuseppe. Usciti con Giuseppe e siamo la squadra che ha ritrovato Gavinuccio Canu. Gavinuccio Canu, e chi è? Non ce l'ho presente adesso. Ricordi quel cantautore sassarese che era sparito nei giorni scorsi? L'abbiamo ritrovato morto ieri sera. Ah, mi dispiace. Capo, anche a noi, ma in un posto che era stato già battuto tante volte, proprio sotto un albero, non si vedeva niente da fuori. Poveraccio. Sì, poverino, ci è dispiaciuto moltissimo. Chi è che vuole entrare? Avanti. Aspetta, Natali, Luca, insomma, aspetta che devo fare una prova, che sono sul tetto, e vediamo un po' se è stato meglio abbassato, va abbassato la spirale. Mi sa che sta arrivando anche più forte, aspetta che guardo un po'. Impossibile, regalate nel basso, Natali, aspetta un attimino, arrivo. 9.30 stai arrivando. Natalino. Un attimo, chi chiama Natalino basso. Lo so che è forte. Evidentemente aveva un po' di stazionale, adesso sta uscendo meglio. Sta facendo delle prove, aspetta un attimo, poi mi dirai chi sei, che non ti ho riconosciuto. Ti ascolto bassino. Chi sei, scendi così basso, Antù? Ora tale mi sa che ancora devo abbassare. Però sono sempre uguali. Io non riesco ad abbassare, Luca, le stazionarie in nessun modo in questi giorni, anche con la vecchia antenna. No, vabbè, io già le abbasso. Adesso faccio una chiamata. Però cazzo, è un casino, ma non so se da abbassare la spirale o da salire. Ma deve salire, boh. A 7 centimetri dal coso, dal... Vuole a 7 centimetri dal ribattino. Eia, già ti sento bene adesso, ti sento meglio, Antù, avvicinandoti, sai. Cappa. ho capito che hai cambiato le batterie. In che zona sei, Antu? Non ti ascolto più, Antonio. Sento che stai parlando, ma è incomprensibile quello che dici. Lo ascolti tu, André? Negativo, solo i due passaggi iniziali, poi sento solo te. Evidentemente è entrato in zona d'ombra col portatile, non si può pretendere più di tanto. Ma Luca è in bianco. Lo stavi passando, aspetta, sta parlando Andrea. Aspetta Andrea che c'è Antonio, avanti. E adesso mi sta arrivando Santiago 9 Radio 5. Ebbene, se siamo vicini, te credo, anche se sono pochissimi watt, già dovresti sentirmi bene. La mazza. Ai, caro, quando fai così ti temo. E sei potabile? Ehi, accavagava. E evidentemente non ti senti, Andrea. Cattivo. Col potabile non ci arrivi da lui, perché c'ha l'antenna che è messa male lui. Peggio di me è che là c'ha una di quelle mini boomerang, ma c'ha due distrazionarie. E dove stai andando, Santu? Cappa. Allora, niente, non... Ma sto passando, ma nulla. Va bene. Sono più alte, perciò la vuole sollevata, non abbassata. Allora sollevala. Vuole a 7 cm dal ribattino la spirale. Poi alzata o abbassata, secondo come sono le stazionarie. Vabbè, qua adesso sono... Vabbè, se vado a fischiare, là, a 1,4, a 10. Chi è? Ah, tu, vabbè. Sì, 9, sì. 9, sì. Ah, molto te salendo. Chi è, beh? Ti ascolto forte, dai. Aspetta un attimino. E dai, già sono sul tetto, dai. Già ti ho capito che sei in via Sorso, non c'è problema. Ti sento benissimo io qua. E te credo che funge. Perché il portatile, cosa... Che pitina. E poi consumano un bel quei portatili, consumano belle batterie. E quelle Duracell ci vogliono. Io ti ascolto benissimo qua, però giustamente siamo vicini. Prova. Un cavolo è calato. Adesso ti dico 9,10 mi sta arrivando. Anzi, 9,15, sì, sul più, quasi a 9,20, sì. E così mi segna, così ti dico. No, perché in via Rosello eri in zona d'ombra, praticamente ricoperto con l'antennino che hai, giustamente non puoi uscire forte, no? Adesso sei libero e giustamente ti ascolto bene. Parla a vedere quanto mi sta arrivando da via Marginotti. È uguale sempre. Va sì. Infatti. Sei a batteria pure. E con l'antennino di gomma. Adesso ti si è abbassato di radio. Via Marginotti è tutta azzada, però da voi quando vai è tutto infaradami. Allora sai lì quando pioveva appena appena le macchine che ci uscivano, uno o due incidenti ho avuto quando lavoravo da quelle parti. Ti sto dicendo di quanto è ripida quella salita lì. Quando scendevano le macchine, se toccavano i freni poco poco, sound di Tiziano, di lontano di Rugrasso di Tiziano. E infatti, è ripida quella discesa, ma la sorte. 9,5 Radio 5. Quel portatile di Marcami, c'è il perizoma sopra l'antenna. E io ho un intec di quelli piccolini, me lo devo mettere a posto perché c'ha il potenziometro del volume difettoso. Appena lo metto a posto me lo metto in macchina. Me l'hanno regalato uno di quelli antichi, Emi, bello, 34 canali. Già lo so, quello è di quelli evoluti, questo è di quelli antichi, 34 canali, uno di quelli omologati. C'ha lo smitter a lancetta, però bello i canali, 34 canali, è bellino, è come apparecchio, piccolino piccolino, e me lo metto in macchina, quello lì imbatte pure. E quello, se gli metti l'antenna esterna, lo sai quanto imbatte quel portatile che c'hai tu? Imbatte un bel, poi c'ha anche la, come si chiama? Di lusso. Mi copiate? Mi sento, ma chi sei, Antonio? Adesso ti copio meglio. Nathalie, ho abbassato un po' di stazionale e hai cambiato antenna, come ti arrivo adesso? Meglio, specialmente di radio. Non riesco a capire, c'ho questa magnetica messa male. Antonio, adesso ti copio bene, poi ti sei avvicinato in zona, ho migliorato anch'io. Ma poi sono qua in via Mendola, ma ti copio basso, ma bene. Ma guarda, c'ho un portacilino. E allora vai di lusso. Non bisogna comprarla. No, infatti ne sono già pentito, una cagata, è meglio questa magnetica che ci ho messa così, quella lì. Quella grande dovevi prendere la boomerang, non quella lì. Quella che è grande imbatte un bel, è bellissima quella grande. Invece quella che è tu mi sembra che è anche difficile da tarare. Tappa, no, la grande già mi dovrebbe arrivare tra 2 settimane, Natale, 2 settimane. Adesso è che volevo cercare di migliorare per dare la magnetica al guscio che non c'è nulla. Allora già ci aggiustiamo, E Luca? E Luca è sul tetto che sta, regolando l'antenna. Che cazzo? Te l'avevo detto che uscivi meglio con la magnetica. Che qua al monte arrivi un bel forte. Scappa. Vabbè, sono contento, adesso vediamo un po'. Vabbè, già miglioriamo, va, piano piano. Aug. E ancora? Sono a casa di Luca. Santiago 8, Radio 5. Già vabbè. Luca, mi senti? Allora, qua sono a casa. Sono le si sono abbassate, hai visto? Non capisco. Prova. 8 Radio 5 qua. A Luca. Chi è avanti? Andrea, tu eri. No, Nathalie, non ero io. Forse qualcuno un po' più lontano. Io vi sto ascoltando qua. È sceso dal tetto e non so, ha fatto un passaggio breve. Ehi, perché la doveva alzare la spirale, dice che hanno abbassato le stazionali. Kappa. E Antonio non si sente più. Chi è che fischia? Antonio, tu sei? Scusate un attimo. Sto scendo. Nathalie, come mi copi adesso? Peggio o meglio di prove di prima? Nathalie, ci sei, ci sei? Antonio, mi copi dal monte? Andrea. Bene, Nathalie, tu sei? Ehi, a che stavo dando una mano a mia moglie? Stavo. Ho mosso un po' l'antenna, come mi copi adesso? Peggio di prima o come prima più o meno? No, ti ascolto benissimo io, Andrea. Adesso stai uscendo alla grande. Grazie, vabbè, sono solo questo passaggio, grazie. Allora, se devi fare altro non ti preoccupare, io ti rimango un ascolto su 10 e ci sentiamo alle prossime. Va bene, ciao Andrea, alle prossime allora. Nathalie, ciao, ciao, ciao. Antonio, dimmi, come? Ehi, ti ho detto, Santiago 8, Radio 5. No, dimmi, cosa mi... non ha aumentato... Non ha aumentato, sempre la solita. Anzi, ha abbassato di segnale. Come così muovido? Ebbene. Non sono elevata, è perfetta adesso. Ma come si muove adesso? E allora voleva sollevata. Ehi, adesso è a posto, là. Aspetta un attimo. Dimmi Antu. Kappa. Piccole gambe, ciao ciao, ciao ciao. Hola, hola, hola. CQ10. Ci c'è qualcuno in ascolto? Pronti, pronti, presente. Ehi, quanta foga. Buona domenica, buongiorno. Ciao Natalino, buongiorno. Ascolta, ma mi è sembrato di capire che stai cercando un baracchino per la macchina, giusto? Sì, ce l'ho uno, ma c'ha il potenziometro difettoso, ne ho uno piccolino, di quelli della Intec, di quelli antichi, ma vuole, non lo so se riesco a pulirlo il potenziometro, capito, perché va a scatti. Ho capito. Allora, a me un mio amico mi ha dato praticamente un baracchino da provare, da testare. L'avevo usato, l'avevo provato e funzionava perfettamente. Però devo chiedere se lo vende. Adesso magari gli faccio qualche foto così te la mando. Ci vuole il microfono, perché me l'ha dato senza microfono. Non so se ce l'ha il microfono suo originale. È un esetta, un i bicetti. Allora, Uniden Pro 510 XL, è veramente piccolo. Guarda, adesso piglio il metro e ti dico più o meno quanto misura. Allora, larghezza 12, altezza 3,5 e profondità 17. E tipo un pacchetto di sigarette. No, un po' più grande, dai. Ti faccio le foto e te le mando. Sei su Telegram, giusto? Su WhatsApp manda. È negativo, l'ho disinstallato, Matai. L'ho disinstallato, c'è solo Telegram. Ma mi sembra che ce l'avessi anche tu, o sbaglio? E dovrei averlo anch'io. Vabbè, dai. Gli faccio qualche foto e te lo mando. Poi chiedo ad Alessandro, quel mio amico, se lo vuole tenere o nel caso lo voglia vendere. Ok. Io adesso proverò ad aggiustare questo. Se aggiusto questo, mi tengo questo che è piccolino stesso, della Intec. Andare. Gaba. Sei Luca, ci sei ancora? No, ha risposto solo Gianni Dubrulufetta, capito? E ci sono io in ascolto. Qui sei Antonio? Natalino sono. Scusa Natalino, facendo un casino oggi con l'antenna. Come ti arrivo? Malissimo? Ehi. Cappa, non so, la parte di giro stazionale anche con la magnetica. Ma poco fa stavi uscendo bene. Ciao Andrea, buongiorno. Ho alternato o rientro di radiofrequenza. Controllati bene i cavi. Natali, ti ho inviato le foto su Telegram. Poi se ci riesco, se hai un po' di pazienza, te lo faccio sentire acceso. Mi è arrivato, aspetta un attimo. Natalino, ci sei? Yeah. Allora, sto uscendo con quell'apparecchietto. Aspetta un attimino. Allora, vediamo un po'. Allora, esce a vedere se riesco a fare un'operazione. Allora, sto facendo un video, apparato acceso, chiaramente ci ho attaccato il mio microfono. E niente, mi devi dire come va? Va benissimo, radio 5. E il segnale com'è? È buono? Adesso te lo dico, aspetta un attimo che non vedevo lo smitter. Vai. 1, 2, 3, prova Uniden Pro 510 XL. Prova radio. È benissimo. 9,25 a picchi di 9,30. Bene, dai, adesso spengo la registrazione e ti mando la clip, ok? Oia, rieccomi. Siamo qui. Il video sta caricando, l'ho fatto praticamente in qualità piena, quindi ci metti un po'. Sarà per arrivare, dai. Che bello. Andrea, ci sei ancora? Se sei tu, c'è un ronzio, o è alternato o è rientro di radiofrequenza, boh. Video arrivato, Natalino. Sì, io lo stavo guardando. Attento, Natalino, attento. E beh, tu, e c'è un video, ma così in voi, vabbè, la bellezza, va. Perfetto, va. Ma così in voi, non da zero. Sono felice. Che ne muove anche. Ma è vero. È vero, tu via perfetta. Ma mi andiamo. Ma va, attacco una persona blu, Natale. Ma ti arrivo adesso, Natale? Vai a vedere. C'è proprio 30 sono. Adesso guardo. Mi devo mettere l'ipnoso, se no non ci vedo. Fai. Guarda, Natale, 1, 2, 3, prova. Eia, 9.30, sì. E io lui sempre 9.30, sono ancora un po' calando. No, 9.30, fondo scala, sì. Guardi, già Marghinetti. Appa, anche da me fondo scala, Luca. A me mi senti? Lo senti, Andrea, Antonio? Antonio non lo sento, a te fondo scala. Vabbè, a me sì. E siamo lì, poi fare una prova, ragazzi, Attacco questo coso, questo gigetto, un attimino. Però se non mi ricordo i passaggi da fare. 2-3 in casa, cava radio, cambio, non sento se... Non che bisogna fare la paratiera, va bene. Uia, Narantu. Attenzione, attenzione. Santiago 8, Radio 5, in Oghe. Attento Natalino, attento Natalino, cambio. Attento Natalino, Natalino, cambio. Mi sentite, sì? Eia, è così. Natali, puoi provare ad attenuarmi? Mo, portami a 9, ci puoi. Ma come vai adesso? Vabbè, c'è un attimino. Vedi. Mi salgono quasi a 2. E la porta stavo ritirare. No, no, sale, sale. Adesso lo ritaro, aspetta. No, ritaratto. Oh, mi sa con un... C'è qualcosa che non va. No, lo so, c'è qualcosa che non va. Che cazzo adesso. Aspetta un attimo. Comunque è salito da 9.15 a 9.20. No, Luca. Ehi, ha attenuato. Io ci tolgo l'attenuatore. Però siamo vicini noi. Attento, Natalino, attento, cambio. E noi poco no, in lontananza si vede di più. Ma se a stazionarie non va bene, perché si brucia. Comunque salgo una a 2, stazionarie quando attacco. Per forza, Antu. Allora, aspetta, Sento che ho fatto... No, SVR. Qua c'è la 3, mi salgo. Deve cambiare anche la scala dei watt. No, non fa, c'è qualcosa che non fa. Magari c'è lo spezzone troppo lungo, c'è un disaccordo, no? Poi il rosmetro vuole l'ultimo, capito? Vuole rosmetro lineare e apparato. K, il rosmetro vuole tra l'antenna e la ciabatta, vero? Infatti. Il rosmetro deve essere l'ultimo che deve dare il segnale, no, praticamente. Deve essere apparato, lineare e rosmetro. Infatti a chi si sbagli è un macello. Attento Natalino, attento, cambio. Rieccomi, rieccomi qua. Gaba gaba. Chi è che chiama? Chi è che chiama? Avanti? Ciao Antonio! Cosa sei? Maramobile? Segnale sale e scende. Dove sei? Zona troppo coperta, dai. Buongiorno, buongiorno, ben sentiti, cambio. Avanti l'amico, buongiorno, chi è? Ciao Giovanni, certo Pettine. Ciao Giovanni, buona domenica. C'è Antonio col portate, Natalino, il sottoscritto e poi non so se c'è ancora Andrea. Andrea, vieni avanti. Cappa, ci sono ancora ma non sento Giovanni. Allora, Andrea, c'hai un ronzio allucinante. che quasi quasi ti copre la radio, boh, non so se sei alternata o rientro di radiofrequenza o l'antenna che non sta lavorando bene. No, KK è alternata, adesso l'ho tolta, sto ricaricando la batteria. Benemera. Aspetta, Antonio, stavo parlando con Andrea, mi senti? Benemera. Ah, c'è anche Giovanni, vabbè, ma Giovanni non ti ascolta, che sei col portatile. Poi c'era Luca, e beh, questa antenna com'è? Luca sicuramente starà smanettando. Quindi via Rosello, che altezza? Antu, benemera. Giovanni, ma ti stai aiutando? No, negativo, io no. Pulito, liscio. Ragazzi, scusate un attimino. Allora, top, a 1 e 5 sono attaccato. Già va bene a 1 e 5, Lu. Bravo, Natalia. Io credo che questo... Sono a 2 e mezzo, sabato, vado a modulare. No, là c'è un disaccordo. O l'hai collegato male. Allora, l'antenna vuole all'antenna del rosmetro. Il trasmettitore vuole all'antenna del lineare. Il trasmettitore del lineare vuole all'apparato. Sbagliato. L'antenna vuole nel lineare, non nel rosmetro. No, se tu lo metti lì... è sbagliato quello che hai messo tu. L'antenna del rosmetro vuole direttamente all'antenna, se no non ti segna, perché se no ti segna solo lineare e apparato, che è il segnale dell'antenna praticamente, per sapere le stazionare che hai quando hai attaccato tutto. Il lineare vuole attaccato all'apparato e l'antenna vuole attaccata al rosmetro, se no non funziona. No, Natalia, è sbagliato. Scusa, ma se io metto prima il rosmetro, è impossibile. Devo metterlo dopo, perché lui è capito, è prima e va attaccato al rosmetro, se no come fa a comandare? Comandare il rosmetro. Il segnale glielo dà al rosmetro, glielo dà il lineare, non ha capito. Mica vivo la laurea, no? Hai sbagliato il collegamento, segna così. Capa Luca, ha ragione Natalino. Il rosmetro vuole tra il lineare e l'antenna, perché devi accordarti l'antenna, se no ti bruci il lineare. Ma praticamente l'antenna va nel rosmetro, giusto? L'antenna, il cavo dell'antenna lo devi attaccare all'antenna del rosmetro. Il trasmettitore va attaccato all'antenna del lineare. E il trasmettitore del lineare vuole attaccato all'apparato. Ecco, così quando tu schiacci va direttamente all'antenna il segnale. E così sai le stazionarie giuste, però va così. Attento Natalino, mi ascolti, cambio. Attento Natalino, avanti. Natalino, mi senti, cambio. Chi sei? Ti ascolto io, Natalino non ti sente, chi sei? Giovanni, sono, perché sono stato qui. Ah, ok, ciao Giovanni, Luca. Natalino non ti sente. Me ne sono accorto, Luca, dove sto scendo qua? Scusate, io vado in quel Rix che devo fare cose in cucina. Vi ascolto comunque. Capo, anch'io adesso sono rimasto in ascolto e vado anche in cucina. Ciao, buona carica a tutti, a dopo. Scusate un attimo. Eccomi, buoni! Adesso ho attaccato il mio, Luca! Attento Luca, mi sente? Beh, non venisci un inocca. Sì, ci sono io Andrea, però sto per andare. Chi sei, Antonio? C'è una fermata bruttissima, Andrea. Scusa, ho staccato. Sto caricando la batteria, perché stavo facendo una prova con la batteria. Ah, è KK. Ciao, ma sei forte qua, io me ne arrivo. Quando siete attaccato? CK 9:30 più radio perfetta. Cosa ho caricato batteria attaccato c'avevi? Sì, adesso sto modulando da casa ma con una batteria da 7 ampere, stavo facendo delle prove e mi sono attaccato un caricabatterie di quelle che tengono la carica della Selwyn per fare una prova, ma inietta un sacco di alternanza, quindi ci devo mettere un interruttore che quando modulo stacco la ricarica, così me lo lascio tutta la notte a ricaricare e ce l'ho sempre carica la batteria. Ma vai dai cinesi oggi stesso te lo compri, 20 euro, cosa, fai un bel 30 ampere. Ah, ok, a sguscio mi ha anche prestato un, come si chiama, un 7 ampere e adesso appena posso ci vado. Stavo provando una mini boomerang, ma è una cagata, l'ho già attaccata e adesso aspetto che arrivi la boomerang. Sempre con la magnetica sto modulando, però oggi c'ho un sacco di stazionari. Gaffa, gaffa. Scusa un attimino, ma una cosa tu. Beretta a me, cazzo, che Beretta, lo metti lontano però, tu metti che c'è la mentolina. I cinesi vendono gli alimentatori, vai e guardalo su. Alimentatore switching da 30 ampere. È bello. Vedrai che... è che non ho il tuo contatto, se no te l'avrei mandato e te l'avrei fatto vedere com'è. Cappa, ma dove lo vendono qua dai cinesi? Tipo da muraglia o da bricocina? Da muraglia. Cappa, allora ci passo stasera domani mattina. Guarda che è un po' bruttino, cioè io non c'ho il contatto, se no te l'avrei fatto vedere come è fatto. Devi collegarli i fili dentro. Cappa. Vabbè, gli do uno sguardo. Ma anche l'interruttore ci hai messo? No, è così, l'ho attaccato alla fine a me, lo stacco, c'è l'interruttore generale, come hanno tutti in uta. Ma ti dico che questi tirano, e vedi che c'ho 747 attaccato, e me lo porta bene, è freddo, se andano a vendere stazionarie rimane così, se c'è proprio per stazionarie scalda maledettamente. Caspita, ci credo. No, tu stai scendo di lusso, veramente. Mi lo sto provando ancora. Il segreto è quello. Se ognari noi cazzi, non succede niente. No, non ti si brucia. Capito? Se l'ignare invece scalda, allora vuol dire c'è qualcosa che non va bene. Ma deve andare così, deve andare. Capito? Positivo, quindi praticamente la temperatura è indicatore di stazionaria fondamentalmente. Perché se è a stazionaria comincia a fischiare a far casino. Invece siccome questa stazionaria non fischia, capito? È quello il segreto. Così io l'ho capito, vedi che io sto lasciando la portante aperta e non. Ancora è freddo. Cosa? Rovinei no? Cappa, ascolta, una conferma, ma giusto per il rosmetro lo metti dopo il 747 prima dell'antenna, vero? Non me lo ricordo com'è adesso, ma io di solito quando so, allora io di solito le misuro, non le misuro mai a 5 watt le stazionarie, le misuro sempre più in alto, capito? Praticamente io le misuro sempre su, le misuro sempre con più, cioè a 10 watt minimo le misuro, perché a 10 watt si capisce di più. Ho capito, quindi sempre con qualcosa acceso. Ho capito, ma perché il rosmetro va attaccato direttamente all'antenna e quindi l'uscita, in questo caso il 747, va attaccata all'ingresso del rosmetro in modo tale che non ti bruci il 747. Una cosa del genere. Io me ne accorgo mi quando non va stazionare, ma poi da canto c'è come dolente, è freddo ancora. Appena caldino, ma quando è così stazionare, non ve ne è, non ce n'è, è inutile che stiamo lì a girare, ti inabiti da ghiaccio, non ti dà problemi, non ce n'è, quell'antenna quando è fatta 1 e 1, no, non ne hai problemi. KK, e così deve essere quando è regolato bene. Io adesso piano piano, adesso con questa magnetica non riesco a fare meglio, adesso quando arriva la boomerang speriamo. Qual è un altro pianeta? KK, adesso mi devo allontanare perché devo fare da mangiare ai bambini. Ci sentiamo più tardi o alle prossime, insomma, buona domenica. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao. Ehi, allo. Aspetta, tanto ti chiamo, ti telefono un attimo. Ehi, ok. Ma l'ho toccato, sì, il segnale. No, ecco. Allora. Dopo che andate. Adesso c'è giusto, vedi, è giusto. Adesso c'ho un e uno. Sì, adesso è perfetto. Cazzo. È perfetto. Aspetta, hai visto che hai sbagliato tutto? Ehi, Fabrizio mi ha dato la cosa giusta, dai. È perfetta adesso. Allora, così come sono. Così come sono. Ma un po' scala, sì. Guarda se sale. Ha sale adesso. È salito? Non vede più il winter, no. Perché altro vuoi andare? Quanto sono? Marca apparecchio che stai usando? No, devi prendere a usare l'altro, devi prendere con l'altro. Beh, adesso sono noi uno, vedi. Oh, non lì funzionanti. No, vabbè, perfetto. Per favore, me lo fai controllare l'aglio, grazie. Giovanni. Mi senti o no? Allora, guarda un attimino, là. Mi dai questo passaggio quando ti arrivo, guarda a vedere un po'. Per vedere la differenza, 1, 2, 3, 4. Allora, su questo si è arrivato... Lavo, dal treno si è spostato. Non ho capito, sono arrivato? Lavo, si è fermato sul 3, sul 3. Sul 3? Sul 3, sì. Ok, guarda adesso, Adesso ho aumentato, Ti sei salito al 5, ti sei salito. Ho capito. E beh, tu. Attaccato l'hai. Ma la radio è buona sempre? Sento benissimo, esci bene, pulito. Dai, collegamento come ha detto Fabrizio, dai, inutile. Cioè io andavo a collegare l'antenna, ma anche Natalia aveva ragione. Però Natalia sbagliava un coso, sbagliava un ingresso, vabbè. Adesso è a posto. Ti stavo ascoltando, infatti io ho cominciato a finale, un lineare facendo così, fatto la fretta, tutto quanto, hai anche al buio, ho fatto danno. Luce più di 9.40 qua, Così quanto sono? Aspetta, così sono staccato, ora un po', quanto sono staccato? Ora un po'. 9.30. E così sono? 1, 2, 3, prova. Più di 9.40. Qualcosa da stare, vabbè, siamo anche vicini. Però... però mi sta segnando i fatti qua, mamma. Certo, mi... Allora, siamo in Dennis, scala 200, vediamo. Sì, 100 watt, anche di più, 100 watt. Tu devi considerare sempre che la radio te l'aumenta questo affare qua. C'è più alto di radio pure. Stamattina facciamo la prova tanto nei canali alti, un attimo. No, 1.5 salgono nei canali alti. Adesso vedete che qua. Un attimo. Adesso sono 1.1. 1.2, dai, nel 10, ma va bene. Perfetto. Si scende di capo, su Maria, va. Se ti ha detto che non è possibile. Lo so. Sei a posto. Sei a posto. Allora, così è staccato. Stazionarie. Faccio qualcosa, aspetta un attimino. Ma così muri, niente. Staccato, non è? Adesso va 1.2. Cappa. Allora proviamo con l'antenna minore a vedere come ti è il risultato, che lì me ne accorgo molto di più, capito? Sì, prova. Guarda a lui. Aspetta che ti faccio il disegno un attimo, 2 secondi, ti rispondo subito. Cappa. Ma stazionaria non ce n'è molto, dai. Un vento in mezzag. Thank you. Natali, io buongiorno. Ma Natali, intendo a me. Anto. Kappa, sono un'antenna piccola adesso. Pompa? E beh, Luca, ha risolto? Già, non credo, già, che doveva risolvere. Hola. Eccomi qua. E beh, Gianni, sì, penso di aver risolto. Bene, Mela. Volevo intervenire io, ma avevi già risolto, dai. Ma non fa differenza da te, se cambia qualcosa, da così a così, cambia qualcosa. Ombre. Aspetta un attimino tu. Vai liscio e poi attaccato. Adesso sono liscio, 1, 2, 3, prova. Adesso ho attaccato, 1, 2, 3, prova. Già cambia, poco a poco, vabbè, chiaramente lo strumentino è quello che è. Praticamente liscio, laghetto è quasi vicino al più del 30. Quando attacchi praticamente laghetto va sopra il più. E beh, come ti avevo detto io era Luca. No, aspetta, dai, vediamo un po', se come mi avevi detto tu, come ha detto anche Fabrizio, così va bene. Dai, dimmi com'era, allora, te lo dico io. L'antenna diretta va nel rosmetro, poi dal rosmetro va nell'antenna amplificatore, poi l'RTX dell'amplificatore va nel baracchino, giusto? E così è. Ok, allora a posto, ho capito male io, allora, comunque sei a posto. Cappa, lui guarda questo passaggio. Guardato là. A questo passaggio, a cambia il segnale. Sì. Adesso sono con l'antenna piccola, con la Storm e con l'amplificatorino attaccato. C'è molta differenza, vero? Allora, il discorso è questo, è che Gianni fa una cosa, portami a 9. Aspetta, sono staccato, se mi porti a segnale 9, Gianni. Fai un altro passaggio? Guarda un po'. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Guarda un po'. Ci sei? Ehi, ha portato a 9. Ok. Guarda adesso. Ora sale? Sì, da 9 a 9, 10, dai. Facendo un calcolo qua, occhiometro nello strumentino. Ti ripeto, bisogna dargli il beneficio del dubbio. Sì, comunque mi sta segnando anche il watt adesso, capito? Allora, scala 200, perché se vado qua così, adesso sono staccato. Adesso sono attaccato, sì. Sta erogando tutti i watt, la voglia. E sono a 200, e quasi 100 watt sono. Buono, la radio te la lascia praticamente intatta, non te la satura, va molto bene. Aumenta pure di radio, appagata, e adesso sto utilizzando l'antenna piccola, ma secondo me la spinge abbastanza, è puntata proprio su di te, puntata, già. Ehi, ma cos'è la bazooka, che antenna hai buco? La Storm 27, la bazooka, che lo chiamano tutti così. Ah, come antenna d'emergenza? Come seconda antenna, ma vedo che già va però. Beh, vabbè, siamo attaccati al tu. Se mettiamo un filo facciamo lo stenditoio. Ah, con questa ce l'hai tutta puntata, ce l'hai, perché più sul tetto, capito? Io vedo te. Allora, su quella mi salgono, agganciato a 1,5. Che andava bello. A voi se va bene, no, se così e boh. Aspetta un attimino, va. Insomma, ha fatto un casino, molto più QRM c'è, con questa, Hola? Avanti. E bene tu. Buonasera, e allora? Ah, buonasera, già tutto passato. Buongiorno, accanto. Buongiorno, scusa. Vabbè, come arrivo da quelle parti con la Storm 27? Ma cambia antenna per te. Cappa. E perché l'hai cambiata? No, ne ho due, ne ho. Qua sei 9,25 con questo passaggio. Cappa, va bene, no? A Puglia. E l'altra cosa ne hai fatto? C'è messo il tetto, E perché te ne hai messo due antenne? Perché ne volevo due. Ma le utilizzi con due apparati diversi o che con le commuti? Due apparati diversi. Non c'è il commutatore per passare da un'antenna all'altra. Eccomi qua, vabbè. Guarda questa. Ciao Luca, ben sentito anche a te. No, stavo dicendo, non ti conviene a quel punto, Antu, prendere un commentatore e lo monti al contrario e commuti le due antenne. Mi aggasino. Guarda a vedere adesso, cambia la tela differenza. 9.30, ma stessa radio e con due antenne diverse. Questa la Ringo. Con la stessa radio o con un'altra radio? No, questa la Ringo con un altro apparecchio. Vabbè, non si fanno così le cose. Magari quest'altro apparecchio ti tira qualche watt in più di quell'altra. Roberto, dimmi tu. Quando ti sto arrivando di segnale, con puoi controllare un attimo, così io sto a fare una prova che siamo vicini. Quando ti arrivo, guarda un po', vai. Con i picchi arrivi quasi 9.30. Guarda adesso, ha cambiato qualcosa, guarda un po'. Che cazzo si è cambiato? Sei arrivato oltre 9.35. Va bene, dai. Va bene, questa è una lontananza, funziona. Già va bene, così staccato e così attaccato. A Puglia, 10 punti guadagni Luca. Sì, siccome la platamono lo stesso. Attaccato sono adesso, si va bene, aspetta. Allora, così. Aspetta. Ciao, 1-1, perfetto. Per me che è pronta a mangiare, ce la risentiamo dopo. Comunque i watt, i robe sono sempre gli stessi, i watt più o meno. Ho provato, con quello là sono sempre quasi gli stessi, i watt. Capito, solo che questa rende molto di più. Ok, ci sentiamo. Ciao, buon pranzo, anche tra poco vado a mangiare. Buon tutto, vai Luca per Antonio. Sì, ciao Antonio, a dopo. Ma è transito questo affare che hai attaccato, Luca? 747. Quanto le tira? Un centinaio ci arriva? Sì, 80. Va bene, in emergenza quando devi fare qualcosa. Poi è bello che non ti cambia neanche la modulazione, non tirarli troppo il collo, magari tienitelo basso, come non è inutile che se fai 80 o 100 non c'è nulla. Lo piloti magari appena di meno, regolabile la potenza di quella radio. Ho capito, scusa? A non tirargli troppo il collo, magari gli dai qualche watt di meno di ingresso all'apparecchio in modo che non saturi il finale, sennò magari ti cambia la voce, crei problemi di spurie, di armoniche, eccetera. No, io rimane così, rimane. Stai andando perfetto, non cambia niente, attaccato o staccato, la modulazione è perfettamente uguale, al contrario della maggior parte di quelli che ho sentito, come attaccavano tutto distorto, saturo, ti mangiava la voce, eccetera. Quello non può distorcere, che ha i finali a mosse. Mi è Natalino Alfa 1, e beh, Natalino. Ebbene, ce li hanno tutti spartiti, non mi è toccato nulla, no? Cosa c'è? Una festa patronale, tendo cani, musica, cosa c'è? Danze, danzate. C'è il cane che vuole il premio, perché si è mangiato tutto. È che sembravi in piazza, in qualche piazza, quando c'è qualche con le feste patronali, e cose del genere. C'è tipo Lugani a Magende, il musica, eccetera, eccetera. Ok, ciao, ben sentito. Vai Luca, per Natalino. Sì, sono sentiti prima, là. Aspetta che vado a fare il primo, se li abbagliare. Sembra una belva, invece è un cucciucciarello piccolino, basta lì. Luca, stavo parlando con mio fratello di quella moto là, se interessa di nuovo forse si dà via quello famoso zippo. Fammi sapere, scrivimi su Messenger, su WhatsApp, fammi sapere. Però prima la devo mettere in moto perché ferma da me pure il carburatore che c'ha tutto in ordine, la devo dare perfetta la moto, non le voglio dare. Dico, lei tolgo la targa perché c'ha la targa, ancora le targhine piccoline. Già vede quanto ne vuole, capito? Ma vabbè, la tua o di fronte al fratello? No, è mia, però è come che c'è in famiglia, era di un amico carissimo. Infatti ieri abbiamo fatto pulizia, venerdì abbiamo tolto tutta la roba, era un locale, stiamo svuotando. Beh, per chi sta moto? Ma cosa ne fai? Era una vendita, magari insomma, ma cosa ne fai? Dice, l'altra me la tengo, il Garelli me lo tengo perché quello non ricordo proprio, ma l'altro di cuore. Questa qui ce l'ho di lì. Vabbè, dai, poi ci mettiamo d'accordo. Però ti ripeto, se la do, devo prima mettere in ordine, pulire i carburatori, deve essere in ordine. La moto, non ci devono essere problemi. Ah, poi io sono un busso fuori, non ho un problema. Già riesco a farlo. Vabbè, là, ci sentiamo, poi mi aggiorni quanto ne vuoi e vedo un po' se è fattibile. La mia è la roba nuova, la mia aveva i pezzi, avevo messo la gomma nuova, ganasce nuove, era un buon uomo, adesso sono pentito, ci credi. E l'ho venduta a 350 euro, ho messo i cubi in tutto. Se era lunga, era un gioiello con la moto, camminava pure un bel, rapporti, credi, ma me ne sono pentito, vabbè. Purtroppo mi servivano soldi perché... Niente, pazienza. Ah, ma questa... circa 5.000 km, il motore forse gli avrà tolto le strozzature, non ha mai fatto niente di modifiche, è tutta originale. C'hanno di bello quelle moto che hanno la pedivella, se ti si ferma riesci a mettere le moto a pedivella se la batteria è scarica. Io lo so. La bellezza delle Vespe è lo stesso, è sempre quello lì. Poi, vabbè, questo c'ha il variatore, non è di marcia, ma a me la Vespa mi è sempre piaciuto per quello. Poi una marcia ha i pigni in discesa oppure con la pedivella. Le moto nuove non ne ha nessuno di pedivella rimessa a moto, parliamo di quei ciclomotori, pochissimi ce l'avevano. Sono poche. Il V1 quello a 5 razze, e con cerchi a 5 razze, no? Sa nuovo, ma l'avevo rubato da me Umberto, guarda, nuovo, robè, ma se vuol dire motore da un gioiello, non c'era un minimo di vibrazione, era perfetta. Non mi hanno fatto neanche io, ancora avrei avuto quella, era veramente nuovo, un bijou la moto. Guarda, quest'uomo è una persona grande, tra l'altro abitava al monte, in quelle zone di via Muros, quelle, no, via Valdella, là, non proprio al monte. E lo so, va rarissimamente, c'è qualche passaggio così, ma non ha mai camminato chissà molto. Quella te ne va benissimo, nel senso non ne ha fottuta nulla, nel senso non era di quelli ragazzi che gli facevano le modifiche, gli mettevano pezzi per fare il coso, marmite, la moto è tutta originale quella moto lì. Motore si può dire il rodaggio. Vabbè, Roberto, ci mettiamo d'accordo, non c'è problema. Sì, ne parlo con lui e vediamo un pochettino cosa si può dare. Ti ripeto, se la devo dare, però la dobbiamo sistemare perché è ferma da tanto tempo. Ma riparte pure, ma ce l'aveva mio fratello, lo Zippi, ma infatti, vabbè, non te ne fai niente, nel senso, non è una moto per fare movimenti grandi. Però mi ha detto, Roberto, non consumava niente. Divertivi appena le misce le fate, tutta la riga mi rende. Consumo zero. Vabbè, perché 50, Roberto, è normale. È che non consuma nulla. Vabbè, dai, non ci sono problemi, Roberto. Ci mettiamo d'accordo, poi vediamo un po' se è fattibile, se no sempre amici rimaniamo, ci mancherebbe. Mi stai scherzando, ci mancherebbe. Ok, Natale Alfa 1 a te il macchio. Io come sto arrivando, tra parentesi, Natale come ti sto arrivando? Che chi sta antenna, avanti o va? Stazionare zero, come prima. Uno, neanche uno e uno, neanche si muovono. Poco più di uno segna questo affare. E non ho fatto niente, Luca, da sola si è ripreso. 9:20 qua. Anche Luca l'ha messo a posto l'antenna. Ed è un bijou adesso. Ma io non ho fatto niente, io stavo pensando che l'M3000 avesse dato qualche problemino, perché era attaccato, il 44 era attaccato all'M3000, poi si è ripreso tutto, l'ho staccato, l'ho rimesso fuori, è ritornato tutto tranquillo. Ma forse qualche falso contatto sullo spezzone può darsi. Non sullo spezzone, io sto pensando qualche falso contatto, siccome c'è il commutatore per tre antenne, questo M3000, che magari il commutatore non era tirato bene, siccome c'è la posizione poi 10, 11, 15, 20, 40, 80 metri, probabilmente Maria era in una posizione intermedia e mi saliva una stazionaria a manetta, poi nella giocava da Enchibi, l'ho ripiazzato, l'MT3000 l'ho attaccato negli HF al 940, funziona perfettamente, tutto segna anche una meraviglia, forse probabilmente in quel momento lì o c'era qualche granellino di polvere nel commutatore o non lo so cosa è successo. Può essere stato anche un falso contatto sul commutatore, dai. Comunque mi sto divertendo, Natalie, in 40 metri ho fatto dei bellissimi collegamenti e tipo su di, c'era questo qua ieri di Abbasanta, col Giappone, io sono arrivato 9 più 5, lui era 7, per dire, non è che uscendo con la potenza dell'apparato, quello lì non so che antenna ci aveva, comunque questo giapponese arrivavo 9 più 5, poi ho fatto Indonesia, un sacco di paesi che non mi aspettavo, ho fatto l'Arabia Saudita, l'Iraq, infatti mai per un radioamatore rispetto sono caramelle, però per me è stata una bella storia. Quelli di coso, poi c'era tutta quella gente super radioamatori con impianti megagalattici, ieri mi sono fatto collegare, arrivavo 9 più 5 e loro arrivavano tutti 9:20, 9:40, erano tutti con 1000 watt, chi trovava un impianto d'antenna da paura, l'ho detto a Marco, ho detto non ce n'è. Sono venuti dal Giappone due tipi per montare l'impianto, un traliccio di 40 metri, mi ha detto Marco, che lui lo conosce personalmente, ha un impianto spaventoso questo qui, per avere anche una marea di soldi, ho visto le immagini, cosa c'ha questo di impianto, e mi hanno dato tutto il rapporto superiore a 9, con un affilare che non vale nulla, nel senso non è paragonabile a quello che avevano loro. E tra l'altro loro con quelle mega antenne stavano dando rapporti ad altri che a me arrivavano oltre 9, loro per 8, 9 e a me arrivavano tutti oltre 9 con questa antennina che non vale nulla. Di nuovo a te Natalia. Non vale nulla, non lo puoi dire, quella era una full size per 40 metri è tremenda, anche se un dipolo ha il suo guadagno, caro lì. Sì, ma considerando che loro erano con antenne direttive micidiali, antenne di 20 metri di boom, cose allucinanti, io cazzo, loro stavano parlando, io stavo ascoltando quello che stavano facendo, ogni tanto entrava qualcuno e dava chiedeva i rapporti, c'era questo di Orizzano, poi ha chiesto il rapporto, ed arrivavo più forte io di questo di Orizzano, io lo seguo, vabbè Orizzano siamo vicini, ma poi c'era Brescia, Forlì, Cuneo, tra di loro stavano parlando, tutti con mega impianti, e io cazzo, qualcuno di quelli l'ascoltavo più forte.